Garibaldone, un programma in italiano non solo per italiani, in onda tutti i venerdì su Radio Contrabanda a Barcellona. E buon pomeriggio, ben ritrovati per una nuova puntata di Zibaldone qui su Radio Contrabanda. Cominciamo con un bellissimo brano che introduce questa puntata di Zibaldone. Cominciare quest'oggi, insomma, un omaggio a un grande artista, George Harrison, Be Here Now, in questa versione che è una nuova versione in realtà, perché è uscita qualche mese fa per il 50esimo anniversario di Living in the Material World, no? Il secondo album solista di George Harrison, un album apprezzatissimo, no? Che già, insomma, Harrison, non solo i Beatles, ma già prima aveva fatto un altro album meraviglioso, All Things Must Pass, e insomma per il cinquantesimo c'è stato questo piccolo regalo che Banzo, bisogna dire, insomma, io ho apprezzato molto. Banzo, bentornato a Zibaldone, buon pomeriggio. Buon pomeriggio Steven, buon pomeriggio a tutti. Be Here Now, infatti, eccomi qui. Un brano del 1973 pieno di suggestioni indiane, o indù, se vogliamo, perché comunque era la spiritualità che aveva, diciamo, informato la seconda parte della carriera dei Beatles e anche la vita personale di George Harrison. E c'è il sitar, che è forse il riferimento musicale indiano più, diciamo, più riconoscibile, non volevo dire scontato, per un utente occidentale, però è oggettivamente una parte molto rappresentativa della cultura musicale indiana. Ecco, sì, è stato un bel inizio, un po' soffuso, ma forse anche adatto all'atmosfera di questa puntata, della quale passo ad annunciare il titolo, che Vai. In attesa di un miracolo. Ne abbiamo bisogno, quanti, ma non di uno solo Banzo, di tanti miracoli avremo bisogno in questo mondo in cui stiamo vivendo, che ne dici? Guarda, non ho fatto il conto, Steven, se vuoi settimana prossima me lo dici. Mando lo scontrino dei miracoli necessari, però ecco, dicevo, parlavamo di spiritualità induista. No, ecco, comunque non parleremo di spiritualità induista, neanche di spiritualità cattolica, perché nel caso lo stiate dubitando, questo non è a sua immagine su Rai 1, ma è Zibaldone su Radio Contrabanda, quindi non parleremo di Padre Pio e non parleremo neanche di rimonte calcistiche all'ultimo secondo, perché abbiamo parlato di calcio solo qualche settimana fa. Quindi Steven, ti lascio introdurre il tema della puntata di oggi. Lo spiego io ai nostri ascoltatori. Solo i miracoli hanno un senso stanotte in questa trincea. Questo verso bellissimo è anche il titolo del nuovo album dell'ospite di quest'oggi qui a Zibaldone, che è Michele Gazic. Con lui parleremo di questo disco che esce proprio quest'oggi. È un disco che Michele porta avanti da anni e che secondo me, tra l'altro, ha... Guarda, non è un disco di spiritualità orientale, men che meno cattolica, però ecco, c'è della spiritualità in questo disco e forse anche il titolo l'ha fatto un po' capire o immaginare ai nostri ascoltatori, e ci sono dei riferimenti anche all'India, al mondo orientale, ma insomma, non anticipiamo molto altro, Banzo, no? Sì, no, se mi permetti, c'è anche il problema che al netto di certe manifestazioni New Age, ecco, che sai, sono un po' lontane dal mio sentire... Forse c'è un problema storico dell'umanità, il fatto che la spiritualità sia stata appaltata quasi esclusivamente alle religioni, quindi diciamo che una spiritualità laica può andare benissimo, ma veramente forse anche questo titolo di puntata, il tema, ci sta portando nelle conversazioni un po' inusuali, devo dire. Sì, guarda, allora facciamo una cosa, andiamo a ascoltarci proprio la canzone che dà il titolo a questo nuovo album di Michele Gazic, e poi ne parliamo insieme a lui, che forse è la cosa migliore che possiamo fare. Andiamoci ad ascoltare allora questa canzone, In attesa di un miracolo, la puntata di quest'oggi di Zibaldone. Vi accompagniamo fino alle 6 qui su Radio Contrabbando. Sputo fuori tutto in questa trincea chiamata vita, chiamata circo, chiamata lacrime, chiamata madre. Solo i miracoli hanno un senso stanotte in questa trincea. La farfalla quando muore sputa, sputa la vita. Scarpe, scarpe, scarpe vecchie rotte, la strada è vecchia, ramo malato è da tagliare, ma nell'attesa, da poveri piccoli. la copro di bellezza, intanto cresce, è da tagliare, è da curare, è da tagliare. Stanotte la febbre sale, stanotte non ho più ali, e il celeste carpentiere inchioda, inchioda altra vita. Miracoli hanno un senso stanotte in questa trincea, il titolo della canzone che ci siamo appena sentiti, ma anche del disco, il nuovo disco che esce proprio quest'oggi di Michele Gazik, che abbiamo ospite quest'oggi a Zibaldone per parlare di questo progetto che tra l'altro è veramente importante e, lo dico subito, fantastico. Michele, innanzitutto buon pomeriggio e benvenuto a Zibaldone. Grazie, sono molto lieto di appunto conversare con te. E il titolo del mio disco non è il titolo di un film di Lina Wertmüller, come altri mi hanno detto, insomma, c'è comunque un senso in tutto ciò. Solo i miracoli hanno un senso stanotte in questa trincea, nel senso che viviamo in un presente, ne parlavamo poco fa fuori onda, così faticoso, così incredibile, così difficile da credersi, che è veramente più semplice credere a un miracolo. Sì. Questo sì, è un po' sì. L'assunto di quest'opera che mi ha accompagnato per tanto tempo. Sì, un'opera, ecco, cominciamo anche subito da qui, che ti ha accompagnato per molti anni, 15 anni di lavorazione, 9 canzoni, solo 2 musicisti, ci sei te e c'è Giovanna Famulari. Riferimenti, influenze che vengono da tantissimi posti, da tantissimi momenti storici, insomma, cito qui, poi dopo ci torniamo insieme a te, da Goethe a Mozart, da Beethoven a Haydn, da Hölderlin a un nostro caro amico che ci ha lasciato qualche anno fa, che è stato il direttore, l'animatore per tantissimi anni di A, Rivista Anarchica, Paolo Finzi. Insomma, guarda, ti cedo subito la parola, Michele. Insomma, portare avanti un progetto durante 15 anni, come mai? E raccontaci un po' la gestazione di questo tuo Solo i miracoli hanno un senso stanotte in questa trincea. Te lo racconto, è una storia abbastanza curiosa. In questi 15 anni non è che io non abbia fatto niente, nel frattempo ho pubblicato degli altri dischi. Molti, molti. Che hanno avuto anche un loro comunque percorso, insomma. A mio nome, io sono anche produttore artistico con altri artisti, ho vissuto a lungo negli Stati Uniti, insomma, ho fatto tante cose in questi anni, però mi tenevo un mazzetto di canzoni a cui lavoravo in segreto, in un certo senso, e ai miei occhi, ma ovviamente, come si sa, l'autore è sempre fin troppo benevolo, erano le canzoni più care e ai miei occhi più belle, e le tenevo lì. Ritenevo che questo potesse essere il mio disco postumo, così mi sono detto, così lascio un bel ricordo di me. E invece poi piano piano questo disco postumo ho anche cominciato a lavorarci un po' più convintamente. Sì, solo due musicisti, siamo io e Giovanna Famulari, ed è un disco molto atipico di canzoni ma senza la chitarra. Per dire, è un disco, come raccontavamo prima, che dialoga con dei poeti, con delle figure apparentemente lontane, ma che in realtà ci parlano oggi. E non è un disco intellettualistico. Tutti questi grandi riferimenti culturali che citavi prima, se uno li capisce, si legge il libretto, benvenuto. Ma se anche non li legge, può anche goderselo in maniera squisitamente musicale ed evocativa. La canzone che abbiamo ascoltato prima, che ha quel mantra conclusivo, solo i miracoli hanno un senso stanotte in questa trincea, è una canzone con la quale da anni avevo cominciato a chiudere i miei concerti, e mi piace di solito lasciare il palco con le persone che cantano questo mantra, lasciare un qualcosa di semplice in fondo. Ascolta, a proposito di testamento postumo, no? Che dicevi che in fin dei conti era un po' quasi la tua idea iniziale dei brani che poi hanno composto questo disco, ecco, qui c'è un altro riferimento in fin dei conti anche a un testo a cui tu poi fai riferimento esplicito anche nel libretto, no? Del disco, che è a Beethoven. Sì, in effetti Beethoven, più di 20 anni prima della sua morte, scrisse un testamento dicendo che la sua vita era ormai insostenibile e non ne poteva più. E si rivolge a tutti noi, in fondo, perché si rivolge, è una lettera scritta ai familiari, ma in realtà si rivolge all'umanità, come sempre Beethoven. E la cosa che mi sconvolge in questo testamento, che si chiama il testamento di Heiligenstadt, che è una cittadina nei pressi di Vienna, dove comunque Beethoven andò a vivere dopo aver fatto una incredibile serie, appunto, di traslochi. Aveva fatto 80 traslochi Beethoven nella sua vita, pensa che roba. Ad un certo punto finisce in questo sobborgo di Vienna, non ne può più perché ha i suoi problemi noti, è sordo, scrive il testamento, non ne può più, e dice: potessi avere un solo giorno di gioia. È l'uomo che poi, più di 20 anni dopo, ha scritto l'inno alla gioia. Questa è una cosa che mi commuove immensamente, no? Che forse questa gioia non l'ha mai avuta, ma ha deciso di cantarla. E da lì parte lo spunto per questa canzone, insomma. Sì, ecco. Sì, e di regalarla a tutti noi. E a proposito di Beethoven, ma anche degli altri riferimenti che alcuni di questi li nominavamo prima, ecco, c'è molto del romanticismo tedesco, oltre del classicismo viennese, tra i riferimenti di queste canzoni che ti hanno accompagnato, come dicevamo, durante, insomma, più di un decennio. Ecco, certo, tu dicevi, sono attuali per quanto lontane nel tempo, ma questa tua, no, passione, diciamo così, da quanto io percepisco ascoltando questo album, nei confronti del romanticismo tedesco, a cosa si deve? A semplice amore per la musica e la poesia che è rappresentata da queste figure che abbiamo nominato, o c'è anche dell'altro? Ma si deve un po' al mio spirito di contraddizione. Come raccontavo prima, ho vissuto parte della mia vita negli Stati Uniti d'America e ho cercato, in quegli anni in cui lavoravo come produttore, musicista, eccetera, di crearmi, come dire, degli comunque antidoti. Ti spiego. Il primo tour che avevo fatto in America mi ero portato, per esempio, i testi di Brassens. E io avevo appunto quel libro a seguito, e io vivevo nel mondo di Brassens, leggevo in francese, sognavo infine in francese, anche se mi trovavo in un contesto molto diverso. E nell'ambito di questi viaggi, ma non solo, come dire, mi creavo degli appigli legati al nostro paese, alla cultura europea, per sentirmi europeo, insomma. E da lì sono partito, è partita anche la scrittura di queste comunque canzoni. Io nasco come musicista di formazione classica, ho fatto, ahimè, aggiungerei, un conservatorio e all'inizio della mia carriera di musicista, ormai tanti anni fa, io ho 55 anni, quando avevo 20 anni suonavo appunto in un'orchestra e mi ricordo l'evento che ha provocato l'abbandono dell'orchestra, te lo racconto anche se comunque divaghiamo un po'. Perché è veramente comico. Era il 95, io ero in tour con questa orchestra sinfonica in India, pensa che roba. E poi tutti dicono che sono tornato dall'India impazzito, in fin dei conti è vero, è successo a molti. Eravamo con appunto questa orchestra che suonavamo appunto queste cose del comunque classicismo viennese per degli indiani ricchi in questi meravigliosi auditorio, mentre intanto io uscivo per strada e la gente, come sai, moriva per strada in India. E quindi mi sono detto: cosa sto facendo? E sono tornato a casa e gli ho detto: mai più. Quindi ho comunque abbandonato l'orchestra, tutti gli anni hanno detto che mi ero fuso la mente, mi sono riconcentrato sull'idea di comunque scrivere delle canzoni, poesie, eccetera. Poi ovviamente non è che ho sbarcato il lunario con appunto questo dall'oggi al domani, però capivo che avevo una missione e sono andato avanti. Comunque, dopo questa assurda divagazione indiana, arriviamo appunto al presente. C'è una canzone che forse ascolteremo tra poco, mi pare, che si chiama Perché Goethe è partito per l'Oriente, che è un titolo che già, come dire, è un po' strano, ma mi fa piacere spiegarlo, e in questo senso parlo dell'attualità del mio album Per i nostri tempi. Goethe, da vecchio, quando tutti lo ritenevano bollito, in realtà scrive un libro meraviglioso, che si chiama Il divano occidentale orientale, e che è una sorta di densissimo canzoniere d'amore in cui i modi della poesia orientale vengono riproposti con la sensibilità di uno dei più grandi poeti dell'Occidente. Insomma, lui si è innamorato di una donna molto più, insomma, giovane di lui, perde la testa, scrive un canzoniere d'amore, ma come lo scrive? Prendendo come comunque modello un poeta arabo, e lui che è un tedesco scrive prendendo Hafez, un poeta del medioevo arabo, come appunto modello, ed invita a risolvere in una dimensione amorosa l'incontro scontro tra Oriente e Occidente, a cui assistiamo anche oggi. Forse avremmo dovuto ascoltarlo quando scriveva queste cose 200 anni fa e suonava la soluzione, la dissoluzione di questo conflitto in una dimensione amorosa. Sì, avrebbe dovuto forse anche leggersi questi testi Samuel P. Huntington, no? Il politologo del famoso libro Lo scontro delle civiltà, no? Clash of Civilization, che ha segnato dagli anni 90 in poi una lettura molto neocons, no? Soprattutto a partire anche dai tempi di George Bush figlio, una serie di politiche americane, ma in fin dei conti occidentali, verso quello che possiamo chiamare l'Oriente. E Un altro riferimento, no, che si collega alla riflessione che hai fatto e che è contenuto nel tuo disco, Michele, ha a che fare anche, diciamo, in questo dialogo a distanza nel tempo, ma anche nello spazio, appunto, tra Oriente e Occidente, ha a che fare anche con Hölderlin, no? Tu appunto spieghi, no, racconti quello che si conosce meno forse della vita di Hölderlin, che sono parecchi anni della la seconda fase della sua vita, dove praticamente vive rinchiuso no, in una casa, accudito da persone che l'hanno salvato praticamente, insomma, dal manicomio e dall'essere rinchiuso in una specie di prigione, e dove scrive delle poesie forse meno conosciute, che però tu dici in fin dei conti sembrano come degli haiku, i primi haiku scritti in Occidente. Sì, è vero, Hölderlin ha vissuto metà della sua vita, 42 anni insomma, in questa torre sul appunto fiume Neckar nel Baden-Württemberg in fondo alla Germania. Sono sempre stato affascinato da una tematica che è il poeta rinchiuso, che in effetti accompagna comunque, purtroppo, aggiungerei, la nostra dimensione dell'Occidente. Se leggi, che so, la storia della follia di Foucault, se ne parla insomma ampiamente. Pensa che roba, da comunque Torquato Tasso fino a Mandelstam, passando per Hölderlin e altri. Pensa quanti comunque poeti che sono stati messi dentro, in carcere, in campi di concentramento, in gulag, di qua, di là, in manicomio. Mi ha sempre impressionato questa... questo atteggiamento in cui chi come dire, si muove leggermente fuori dalla norma, a questo punto va rinchiuso. C'è anche una cosa affascinante che mi sta molto a cuore, è che il potere, come appunto i poeti, cioè il potere e i poeti hanno solo una cosa in comune, la legge e i poeti, diciamo, che operano appunto sul linguaggio. E appunto i poeti comunque disconnettono dire, la apparente razionalità della legge e del linguaggio. E questo fa sempre impazzire chi sta al potere e che a questo punto dice, beh, i pazzi sono loro, mettiamoli dentro. Ma in realtà è un ribaltamento curioso, no? Sì. I pazzi sono quelli che fanno le leggi, insomma. Ecco. Sì, sì, sì, sì. Prima citavi Perché Goethe è partito per l'Oriente, una delle canzoni contenute nel tuo disco. Ce l'andiamo a sentire e poi ritorniamo qui insieme a te per continuare a parlare di questo tuo bellissimo nuovo disco. Eccoci qui in diretta in questa puntata di Zibaldone insieme a Michele Gazic per parlare di questo suo nuovo album dal titolo fantastico Solo i miracoli hanno un senso stanotte in questa trincea. E parlavamo prima del romanticismo tedesco, del classicismo viennese, Michele, ecco, ma in realtà c'è anche parecchia Francia tra i riferimenti, no, che tu fai nelle canzoni, espliciti ed impliciti. Penso per esempio a Chagall, e tu parli addirittura di un museo che tu ami moltissimo, il museo Marc Chagall a Nizza. Ma sì, è un museo che amo molto. Ti ricorderai che quando ci eravamo incontrati al Tenco, sì, poco tempo fa, sì. Il giorno dopo io sarei in effetti andato là, proprio a Nizza, e al museo, insomma, Chagall. È un luogo a cui presso il quale torno almeno una volta all'anno, insomma, anche perché innanzitutto è estremamente affascinante, perché prova a pensare, è un museo voluto da Chagall stesso, in cui i quadri sono appesi in un museo costruito come voleva lui, nella sequenza che voleva lui. Già questo è interessante. Sì. E poi si chiama questo museo del messaggio biblico, in cui in maniera con il sincretismo che lo comunque contraddistingue, Chagall cerca di comunque risolvere conflitti tra comunque varie comunque religioni in una contemplazione che vada al di là delle, appunto, religioni, e il che è estremamente suggestivo. Poi vedi nella luce della Costa Azzurra questi colori meravigliosi di Chagall, i suoi blu e i suoi rossi che si accendono. Quindi è uno dei pochi luoghi dove anche al più miscredente può venire voglia di pregare qualcosa, insomma. Quindi lo ritengo estremamente, estremamente suggestivo. E ho scritto in effetti una canzone che si chiama Alice nel paese di Chagall, in cui immagino che una Alice si perda proprio nei quadri di Chagall, e la canzone in qualche modo li descrive. Ma c'è anche Yves Bonfoy e poi anche, tra l'altro, ecco, forse il riferimento, diciamo, rispetto a tutto quello che abbiamo citato fino adesso, meno immaginabile dal mio punto di vista, è quello di Giovanna d'Arco. Dici, no, Giovanna d'Arco, tra l'altro, lo dico anche, insomma, per i miei studi sulle estreme destre, che è sempre stata un riferimento, no, del nazionalismo francese, e fino adesso anche addirittura di Marine Le Pen, no? Come finisce Giovanna d'Arco in un disco come il tuo, in una canzone che è la seconda, tra l'altro, si intitola Sangue Dolce? Allora, si apre con dei versi che non so se potrebbero essere approvati dalle nuove destre, che sarebbero questi: ho il sangue dolce come vino da messa, sono ape e puttana, io so volare. Detto ciò... Non credo che approverebbero, ecco. Non credo neanch'io, quindi è una visione un po' diversa di, appunto, Giovanna d'Arco. E poi, insomma... E anche mi rendo conto un'ambizione da far tremare le vene del polso, perché Leonard Cohen ha scritto una canzone meravigliosa su Giovanna d'Arco, che ha tradotto appunto, che poi De Andrea ha tradotto, eccetera. Insomma, che è una canzone meravigliosa. Comunque, io ero più che altro suggestionato anche dal nome che porta appunto l'altra persona che ha fatto questo disco per me, l'unica che l'ha suonato. Per me e con me, Giovanna Famulari, che secondo me è veramente incarnazione di Giovanna d'Arco oggi. Lei come dire, ha portato questo nome veramente come appunto un vessillo. Giovanna, anche se sembra una persona così è incredibilmente solare, positiva, eccetera, gli ha avuto delle significative complessità esistenziali che ha superato con una forza che mi frastorna sempre. E quando suono con lei è come se arrivasse un bagliore di luce. Lei è veramente in grado di comunque trasformare il suono in luce, come dico sempre, il che mi rendo conto suona un po' magniloquente, però è davvero così. Chiunque l'abbia ascoltata e vista non può non aver provato una sensazione simile. E la cosa curiosa è che Giovanna ed io abbiamo avuto la medesima formazione, come accennavo in parte prima riguardo a me. Abbiamo fatto un conservatorio, eccetera, eccetera. Entrambi abbiamo poi abbandonato il mondo della musica classica, perché ma poi abbiamo capito che non odiavamo la musica classica cosiddetta, ma odiavamo il suo pubblico, il suo mondo, le signore, insomma, in pelliccia, queste cose qua, e allora abbiamo detto: ma scusa, amiamola di nuovo, ma appunto come si deve. E così abbiamo fatto questo ciclo di canzoni, che è un ciclo di leader, come si diceva nella musica classica, pensando a Schubert. Ma in fin dei conti non abbiamo mai odiato quella musica, ma il mondo che ci stava intorno. Ascolta, una delle canzoni, prima lo dicevo, citando Paolo Finzi, è proprio dedicata a Paolo Finzi, no? Che è stato, lo dicevo, l'animatore, no? Durante tantissimi anni di Ari Vista Anarchica, che se n'è andato purtroppo nel luglio di ormai quasi 5 anni fa, del 2020. Ecco, volevo chiederti appunto, no, su questa canzone. Non solo, che tra l'altro è una canzone che è solo strumentale, dal titolo anche in questo caso molto lungo, no? Materiali sonori per una descrizione dell'anima di Paolo F., e che è stata registrata in un luogo magico, il Battistero di Concordia Sagittaria. Sì, è stata registrata in un luogo dove i suoni girano in tondo, è un battistero circolare, dell'anno 1082, ce n'è uno simile appunto a Istanbul, quindi è questo Veneto orientale, che è molto orientale, la provincia di Venezia in cui comunque io vivo. E Paolo Finzi è stato uno dei miei amici più cari, un maestro per me, l'ho ritenuto un mio guru in un certo senso. Ho anche scritto per la sua rivista, A Rivista Anarchica, come diceva lui, la prima rivista in Italia, e poi dopo aggiungeva a bassa voce in ordine alfabetico. Detto ciò, è stato uno dei miei più cari amici, e quando lui si è purtroppo tolto la vita è stato un qualcosa che mi ha veramente sconvolto. E non ho mai trovato le parole per questo gesto, per questo il brano che ho scritto per lui è un brano strumentale, senza parole. Perché cosa vuoi dire? Mi è piaciuto però registrarlo in un battistero, un luogo in cui tradizionalmente si entrava nella vita, perché lui è uscito dalla vita, ma il suo insegnamento brucia e resta comunque attuale per me. Paolo, tra l'altro, era molto vicino alla canzone d'autore, fu uno dei veri amici, tra l'altro, di Fabrizio De André anche. Tra l'altro, una delle ultime volte in cui ci siamo incontrati fu comunque proprio al Tenco, perché 2019. Era l'anno in cui lui assegnava il premio ad Alessio Lega, sì. E io comunque suonavo il violino con Alessio in quella circostanza, e quindi ho raccontato anche nel libretto del CD questa cosa. Stavamo arrivando al Tenco, siamo arrivati a Sanremo, insomma, facciamo quel lungo sottopasso dalla stazione a Sanremo e camminiamo e non ci riconosciamo per un po'. Ad un certo punto ci riconosciamo, io vedo una grandissima tristezza nel suo viso, e quella tristezza che poi gli è rimasta fino alla fine, purtroppo. Infatti le parole che ha lasciato sono tremende, in fin dei conti sono un insegnamento anche quello, che lui se n'era andato per non vedere quello che noi oggi stiamo vivendo oggi, insomma. E stiamo vivendo e vedendo oggi. C'è un bellissimo video che consiglio ai nostri ascoltatori, se hanno il piacere e la voglia di andare a cercare, appunto, della registrazione di questa canzone nel battistero romanico bizantino, dicevamo, di Concordia Sagittaria, vicino a Venezia. Prima citavi Fabrizio De André, Michele, no? Noi ci salutiamo con una canzone, no, di De André, ma che ha a che fare, insomma, anche c'è in mezzo Francesco De Gregori, ma lo lascio spiegare a te. Ed è l'unica canzone non scritta da te contenuta in questo album, è l'unica cover, ecco, per così dire. Sì, penso che sono arrivato alla mia tarda età senza mai aver avuto il coraggio di comunque eseguire una canzone di De André. Questa, alla fine, ho deciso che dovevo farla. È una sorta di esercizio di comunque ammirazione. Nei miei ultimi dischi mi sono riproposto di mettere in essi una canzone non mia. Mi senti bene? È vero che sì. Forse si è mossa la mia cuffia. Benissimo. E nel comunque disco precedente, per esempio, avevo messo una canzone molto atipica di comunque Dalla, che si chiama Ulisse coperto di sale. Meravigliosa. E fa io l'amo molto, insomma, e fa parte di quella incredibile trilogia di album che comunque scrisse con Roversi. Il poeta Roberto Roversi, che io adoro personalmente, cioè, e quindi mi sono detto vabbè, adesso lo faccio. Allora, nel disco precedente, che si chiamava Argon, ho fatto Ulisse coperto di sale, e in questo Oceano, che è una canzone scritta da De André e De Gregori, ma che a parte il fatto che il figlio di comunque De André è cristiano, perché in qualche modo dedicata a lui ogni tanto la suona, è una canzone abbastanza dimenticata, e curiosamente è un omaggio a De André, che non è la solita roba, non è tipo Bocca di Rosa, Don Raffaele, è una canzone alla quale non si pensa e a parer mio meravigliosa, che inanella una serie di immagini oniriche apparentemente slegate, che racconta Cristiano, erano quelle domande che si fanno da bambini, tipo quanto dura una stanza, queste cose qua, e quindi però l'insieme è incredibilmente poetico, e anche nell'arrangiamento originale, che era cura di comunque Tony Mims sull'album volume ottavo di Fabrizio De André, c'era un incedere piuttosto classicheggiante tra archi, eccetera, e quindi ho pensato che bene si attagliasse a un progetto come quello che ero in animo di fare, perché naturalmente io poi l'ho personalizzata, perché in un disco di comunque De André non può non esserci la chitarra. Io ho eliminato la chitarra, ho messo un pianoforte al posto della chitarra, e l'ho trasformata in una sorta di comunque duetto tra me, appunto, e Giovanna. Quindi alla fin fine è legata all'originale per quanto riguarda violini, violoncelli, archi, però penso di averla anche in un certo senso fatta mia. E noi ce l'andiamo ad ascoltare, e con questa canzone ti salutiamo, Michele. Grazie davvero di essere stato con noi, complimenti ancora per questo disco, e ci auguriamo di averti presto in futuro nostro ospite. Un abbraccio grande. Un abbraccio forte anche da parte mia. è stato come sempre bello conversare con te, questa volta l'abbiamo fatto anche in pubblico, ma anche quando l'abbiamo fatto in privato è stato sempre bello. E lo faremo, ciao, lo faremo di nuovo presto. Oceano, nella versione di Michele Gazic. Quanti cavalli hai tu, seduto alla porta? Tu che sfiori il cielo col tuo dito più corto. La notte non ha bisogno, la notte fa benissimo a meno del tuo concerto. Ti offenderesti se qualcuno ti chiamasse un tentativo. Ed arrivò un bambino con le mani in tasca ed un oceano verde dietro le spalle. Disse: vorrei sapere quanto è grande il verde, com'è bello il mare, quanto dura una stanza. È troppo tempo che guardo il sole, mi ha fatto male. A lasciare le campane al loro cerchio di rondini e non ficcare il naso negli affari miei e non venirmi a dire: preferisco un poeta, preferisco un poeta ad un poeta sconfitto. Ma se ci tieni tanto, puoi baciarmi ogni volta che vuoi. Ma se ci tieni tanto, puoi baciarmi ogni volta che vuoi. Ma se ci tieni tanto, puoi baciarmi ogni volta che vuoi. Dichiarazioni di Trump scuotono le diplomazie mondiali perché sostiene che in 30 secondi l'Ucraina avrebbe avuto il tempo di dire di no alla Russia. Per dirsi ti amo non solo fiori e cene a lume di candela, ci sono anche le terre rare, dice Mosca. Italia al palo nella difesa della democrazia, ma per chi non la cerca non ha prezzo. Eccezionale scoperta archeologica all'assemblea della CISL, uno sciopero di 48 ore di epoca preromana venuto alla luce durante i lavori. Meloni, ricordare tutti insieme i sindacati è un dovere morale. Trump ribadisce di voler acquistare e gestire Gaza a passo di samba con il tradizionale lancio di caramelle, con avvertenze sulla pericolosità per la salute e che i palestinesi non avrebbero alcun diritto di affetto e vicinanza, ma solo di sopravvivere in una RSA nei pressi di Firenze. Yannick Sinner raggiunge a sorpresa un accordo con Gisella Cardia, la sedicente veggente, che ora parteciperà al suo posto agli internazionali di Roma. La CEI, rispetto per la scelta, per lui quella libertà che ha ispirato tanti film non a prezzo. La versatilità e i tanti gusti tra i successi di questo prodotto intramontabile, un'eccellenza del Made in Italy che dispiacerà. Gli esami clinici hanno stabilito che il sangue sulla statua della Madonnina di Trevignano è del suo fisioterapista. E beh, sono tornate anche, l'avete sentite, le ultimissime del nostro Fausto De Salvia, che salutiamo e ringraziamo. Banzo, allora, Trump ovviamente anche sulle ultimissime, che insomma è legato alla realtà come anche qualunque media, la fa da padrone. Però ecco, io forse comincerei, se vuoi, in un commento telegrafico da Gisella di Trevignano. Beh, io so che, non so se si può dire, Steven, può ma dire. Io so che tu sei molto fan di questa figura. L'ho seguita con attenzione, diciamo così. Ecco, sì, ecco, bisogna chiarire, perché fan non nel senso esatto. Che si attribuisce, tipo, di fare una squadra di calcio o amare i Beatles, ecco, visto che prima abbiamo ascoltato Harrison. Però, ecco, sì, è un personaggio che hai studiato, ecco, siamo più corretti. Beh, non lo so, è un personaggio per tutte le stagioni, mi verrebbe da dire, soprattutto in Italia, però non so se in un torneo di tennis se la potrebbe cavare. Comunque anche qui torna la CEI che dà un parere in merito e dimostra una volta di più che l'Italia ha un problema con l'ingerenza della Chiesa Cattolica, sicuramente. Banzo, brevemente, su Trump vuoi dire qualcosa o glissiamo? No, però appunto la Madonnina di Trevignano, ecco, si è scoperto che no, su Trump no, perché insomma Steven ne parliamo 24 ore al giorno, sì, tutti i giorni, ragione. Però ecco, il sangue sulla Madonnina di Trevignano in realtà era del suo fisioterapista, della Madonna credo, il fisioterapista della Madonna, una figura che dovremmo cercare di intervistare, non potendo intervistare Gisella Cardia, ecco. Beh, ci proveremo, vedremo nelle prossime settimane. Ascolta, siamo quasi in chiusura di trasmissione, però abbiamo il tempo ancora per un paio di brani. E un altro brano è una cosa molto, molto bella, perché è uscito da poco, da qualche mese, un album inedito intitolato Mesolella e Spinetti Live. E si tratta di una registrazione di un concerto dell'ottobre del 2007 a Monte Prandone, provincia di Ascoli Piceno, del duo appunto Fausto Mesolella, che purtroppo ci ha lasciato ormai qualche anno fa, parliamo del 2017, come volano gli anni, e chitarrista fantastico, insomma non ha bisogno di presentazioni, e Ferruccio Spiretti, contrabbassista eccezionale, fortunatamente lui ancora in attività. Hanno collaborato durante decenni, una trentina d'anni, soprattutto no, negli Avion Travel, ma non solo. Ecco, insomma, i loro concerti, per chi ha avuto l'occasione di vederli, sono stati sempre meravigliosi. Godetevi anche questa canzone, tratta da questo live finora inedito. Il brano è una cover e si intitola, la conoscerete tutti, La Pantera Rosa. Eccola qui. Thank you. Beh, gli applausi li sentite, insomma. Beh, Fausto Mesolella, Ferruccio Spinetti, che cosa volete di più? Non lo so, Banzo, noi siamo arrivati alla fine di questa puntata di Zibaldone, come sempre ci salutiamo con L'ultimo trago, una canzone italiana interpretata da artisti un po' di tutto il mondo in altre lingue. E chi abbiamo quest'oggi? Spiegalo un po' tu ai nostri ascoltatori. Ecco, sì, la rubrica era nata con versioni in lingua spagnola, provenienti da, anche dall'America Latina, non solo dalla Spagna, però quest'anno abbiamo aperto ad altre lingue, rimaniamo in America Latina perché la canzone di oggi viene dal Brasile, ovviamente viene dall'Italia ma arriva in Brasile, e andiamo a recuperare, perché questa puntata, avete visto, è un po' peculiare come mood, chiudiamo con una nota molto molto giuliva, perché la canzone è Ufo Robot, quella del 1978, la sigla del cartone animato, ve la proponiamo in portoghese a cura di Bianca. Chi è Bianca? Non ne avevo la minima idea. Steven, al secolo Cleide Domingues Franco, insomma, secondo cognome rivedibile, carriera breve, è cominciata prestissimo perché questo brano è del 78 come l'originale, aveva 14 anni ma nell'86 insomma era già a fine carriera, la sua ultima incisione, e questo brano uscì come lato B del suo primo singolo. Il brano originale, insomma, Luigi Albertelli, che era scomparso il 19 febbraio 2021, il paroliere, vince Tempera alle musiche con Aresta Volatti, che suona il basso nella canzone, ed è d'altronde, insomma, una canzone di un cartone animato, avere un basso così non era una cosa scontata. Comunque la versione brasiliana, diciamo che insomma sfrutta un tema accattivante, ma a livello testuale non c'entra niente, assolutamente nulla, perché parla del l'amico della protagonista, un robot figlio di uno scienziato pazzo, qualcosa del genere, ecco, non, Insomma, è un testo che ci lascia un po' interdetti. E chiudiamo così, dopo aver parlato di miracoli divergenti. Beh, che magari un UFO venga a salvarci dalle cose che stiamo vedendo nel mondo. Comunque no, solo due appunti rapidi. Bianca, no, che tu dicevi, Cleide Domingues Franco, il suo vero nome, era stata lanciata come a Roqueira do Brasil, insomma una teen idol che in questo suo primo singolo, ecco, la canzone che ci andiamo a sentire era stata inclusa come lato B, no? Vabbè, insomma, andiamocela a sentire. Banzo, noi ci ritroviamo venerdì prossimo. Buon venerdì sera a tutti, ma soprattutto, come era solito dire il primo sindaco socialista di Madrid dopo la fine del franchismo, Enrique Tierno Galván, alle 17.54 tutti i venerdì diceva: in una puntata sui miracoli però non è apparso Bruno, il comico serio, che è un miracolo al contrario, però insomma, ecco, sempre qualcosa di miracoloso. Non chiamarlo. Buona serata Banzo, buon venerdì a tutti. Viva Robô from Brazil, la roqueira bianca. Pessoal.